Che notte buia che c'è, povero te, povero te. Che acqua gelida qua, nessuno più ti salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda, il mare ti porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai. La nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Sara, sì? Ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Io mi stringo a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce intorno a te. Ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda, il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, donne da sogno